21 qui da Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza. E naturalmente www.ondarossa.info. Please fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Prima di iniziare, chiaramente vado a ricordare la nostra campagna di crowdfunding, questo radio abbonamento a partire da 30 euro annualmente, che si può fare andando a visitare il nostro sito internet. Lì ci sono le varie modalità di adesione per questa realtà che i più affezionati e non solo sanno che è priva di qualsivoglia forma di pubblicità, e quindi grazie all'iniziativa e chi la sostiene dall'esterno e anche dall'interno riesce ad andare avanti ormai da lontano 1977. Alle 22.30, 25 o'clock. Saluto il medico della peste, Tiziano Farinacci di Pigreco, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Duo Serpe e tanti altri progetti musicali. Pindar con Cecilia Miradoli. Doriana, Isetual. Abbiamo Vurnus Island, Industrial Piemontese, Anna qui a Roma, Maia e Nicolocci, fedelissimi in quel della Sardegna, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, Laura, Enrico Ponzoni di Sokushi Butsu Project, Simone Scalise di Audio Chaos. Lucia Cagliazza, Lupsi. Venusia Stramonio, Barbara Caridi, Massimo Pasqualetti in quel di Latina. E anche omicidio nella persona di Antonio Zoviet, Francesco Cornello. Like Wake. Vado a ringraziare molti di quelli che hanno sottoscritto il radio abbonamento, molti di quelli che ascoltano gli spazi del sottoscritto. Li ringrazio e chiaramente anche gli altri sono caldamente invitati. Cominciamo da questa strana produzione ad opera di Maurizio Fasolo e Alex Palk, una parte dei Pankow. Operazione particolare che consiste nella rilettura in versione elettroacustica del Winterreise, una delle ultime opere di Franz Schubert. E il tutto è nato durante, diciamo, la composizione anche dell'album precedente Never Trust a White Man, che ha avuto una gestazione di ben 3 anni. Ebbene, durante le sessioni di quell'album i due musicisti si sono ritrovati a casa di Alex Palk in Australia, si sono addormentati e, svegliandosi nel cuore della notte, si sono accorti che andava in onda qualcosa che riguardava Schubert. Da lì è nata questa, diciamo, ispirazione nel rileggere questa opera, scritta, ricordiamo, da Franz Schubert poco prima della morte, avvenuta a 32 anni. Questa sera ho scelto 4 estratti abbastanza brevi. Abbiamo Der Linderhaum, Wasserflut, Rückblick e poi la 10ª traccia dal nome Rust. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rede so manches liebe Wort. Es zog in Freude und Leide zu ihm mich immer fort. Ich musst auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir greift am Gesicht, der Hut from me upon zerspringt in Schollen und der weiche Schnee zerrinnt. Und der weiche Schnee zerrinnt. Schnee, du weißt von meinen Sehnen, sag, wohin doch geht dein Lauf? Folge nach nur meinen Tränen, nimmt dich bald das Bächlein auf, nimmt dich bald das Bächlein auf. Es brennt mir unter beiden Sohlen, tritt ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möcht nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Tür mehr seh. Hab mich an jedem Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen warfen Bell und schlossen auf meinen Hut von jedem Haus. Die Krähen warfen Bell und schlossen auf meinen Hut von jedem Haus. Wie anders hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit? An deinen blanken Fenstern sangen die Lerch und Nachtigall im Streit. Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell, und ach, zwei Mädchenaugen glühten, ja, was geschehen um dich, Gesell? Und ach, zwei Mädchenaugen glühten, ja, was geschehen um dich, Gesell? Kommt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts sehen, mich nicht zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Kommt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts sehen, möchte ich zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen, möchte ich zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen, vor ihrem Hause stille stehen. Thank you. Ovviamente ha risoluto Barbara, e lo facciamo in diretta ovviamente. Leggo che fa tutto vero, infatti è tutto vero, siamo in diretta. E in diretta continua ancora questa opera riletta da Maurizio Fasolo e Alex Palk di Pankow, questa Winterreise. Dunque, anche per questa sera abbiamo iniziato questo prove tecniche di trasmissione di oggi, 14 giugno del 2023, con questa opera di Franz Schubert, la Winterreise, rifatta in questo modo da Maurizio Fasolo e Alex Palk di Pankow. Alex Palk, in realtà anche lui al pari di Maurizio e sono toscani, ma il tedesco credo lo parli abbastanza bene, la testimonianza del risultato poi finale di questo disco assolutamente intrigante. Porzioni e segmenti anche di musica elettronica a reinterpretare la classicità di Schubert. Ben 24 tracce, altre 3-4 ce le ascolteremo il prossimo mercoledì. Allora, andiamo avanti, lasciamo Winterreise e andiamo da Raffaele Pezzella. Praticamente onnipresente nelle nostre produzioni, selezioni perché lui, oltre a essere un musicista, produce e diffonde anche musica di altre terre lontane, di altre culture, chiaramente anche con l'ausilio di artisti locali. E il 3 febbraio di quest'anno è uscito questa Anthology of Experimental Music from Latin America, la parte più nascosta e sotterranea del Sud America, quello che diciamo non ti aspetti secondo i vari luoghi comuni che ci arrivano da laggiù. Vera e propria mappa, diciamo, musicale, tra sperimentazione, elettroacustica, musica concreta, astratta, ambient, drone. E questa sera andiamo con l'andamento sperimentale di Flaub con Analog Foundry e poi il già citato Tremolo Audio con Benoit. Thank you. Thank you. Anche questa sera dunque un bel viaggione in Sud America. Sfruttando la compilation, l'ennesima compilation di Raffaele Pezzella, questo Latin American Music Survey, un viaggio nel Sud America più nascosto e sperimentale, che ha visto questa sera protagonisti due musicisti, forse entrambi provenienti dal Brasile. Più notizie magari si possono trovare su Bandcamp, ma non solo. Flaub, ossia Fernando Laub, e Tremolo Audio, ossia Jorge Verdin, il primo un collage spasmodico e lacerante, il secondo un vero e proprio loop circolare ossessivo, a testimonianza di come insieme agli altri sia una scena veramente viva. E quando mi capita di suonare anche la musica che viene dall'opera, dalla ricerca di Raffaele Pezzella, non capisco quelli che dicono che ormai nella musica non si inventa più nulla, ma soprattutto che ce n'è poca in giro. Io ritengo che addirittura ce ne sia anche troppa. Basta avere lo spirito di ricerca giusto e la curiosità, diciamo, intatta e assolutamente enciclopedica, che ci permette di andare a scovare questi piccoli capolavori in ogni parte del mondo. Intanto vado a salutare Maurizio Fasolo, The Punkoff, con i quali abbiamo aperto questa odierna puntata di prove tecniche di trasmissione. Li rimanderemo ancora una volta il prossimo mercoledì. Un disco che è veramente adatto per aprire poi tutto il viaggio che ci porterà fino alle 22:30. Dall'America Latina si torna in Italia, andiamo a Serigno, nel Monzese, per questo artista dal nome Antikatekon, che abbiamo già incontrato qualche annetto fa, ma recentemente è uscito un nuovo lavoro dal nome Sublime Ascension, due lunghi drone tra ambient scurissima con delle schegge industrial noise che di tanto in tanto fanno diventare questo album ancora più ruvido. E allora ci ascoltiamo dal primo movimento ossia proprio Sublime Ascension, ci ascoltiamo la prima parte. vero e proprio viaggio, soprattutto introspettivo, è ciò che può evocare la musica di Anticatecon. Anticatecon, progetto di Davide Del Col, musicista lombardo che sovente va a collaborare con il nostro amico Giuseppe Verticchio di NIM, che cura spesso il suono delle opere di Anticatecon, compreso questo Sublime Ascension, brano omonimo dal quale abbiamo estratto una prima parte. La seconda ce l'ascolteremo tra una settimana. Qualcosa di metafisico che però di tanto in tanto viene squarciato da intrusioni noise. Come dice giustamente Antonio Zovet, molto ritualistico, sacrale a suo modo. 21:52. Già sono passati 50 minuti di prove tecniche di trasmissione che andrà avanti, come ho già ricordato, fino alle 22:30. E adesso si cambia decisamente storia, andiamo da Senketsuno Nightclub, progetto anche qui di Adriano Vincenti e Giovanni Leonardi, già insieme nel caso di Lamara. Qui invece ci inoltriamo in territori di jazz industriale, morboso, ispirato dalla radicalità del cinema giapponese e dalla estremizzazione di determinate tematiche proprio di quel tipo di cinema, che hanno ispirato appunto a questi due musicisti, coadiuvati anche da Ian Ferguson e anche da una regista Furaci Life. L'ultimo lavoro è scritto totalmente in giapponese, mi sono preso la briga di più o meno di tradurlo, e quindi in inglese Indulgence is Deep and Slow, ed è pronto la prima traccia, il brano omonimo, e la seconda dal nome Scars on Your Back.